Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Dovere civico. Così l'articolo 48 della nostra Costituzione descrive l'atto al quale tutti, cittadini italiani sopra i 18 anni di età, senza distinzione di genere, razza, idee o provenienza, siamo chiamati a compiere proprio in questi giorni. Un segno su una scheda, ma che ha in sé un valore ben più ampio. È il popolo, detentore, sempre secondo la Costituzione, della sovranità, che la esercita liberamente nella più alta forma di partecipazione democratica. Eppure, siamo abituati a parlare di diritto di voto, mai di dovere di voto. Certo, non esiste un obbligo di voto, ma è chiaro il riferimento morale che i padri costituenti ci hanno voluto dare. Se non eserciti la tua sovranità, o popolo, poi non lamentarti se le cose vanno male. Eppure, i sondaggisti concordano nel ritenere molto probabile che queste elezioni alla fine possano risultare essere le elezioni politiche con la maggior percentuale di astensione nella storia della Repubblica. Qualcuno, sogghignando, mi ha confidato di essere addirittura contento di questa prospettiva. In un regime proporzionale come il nostro, meno gente vota, più il tuo voto pesa. Una prospettiva triste, francamente. Chiarissime le responsabilità della classe politica e dei partiti che hanno letteralmente fatto a gara nel perdere credibilità e distruggere la fiducia nei loro confronti da parte dei cittadini. Ma ci sono anche altre motivazioni? E la dottrina sociale della Chiesa che cosa ci dice al riguardo? Dalla lettera pastorale Octogesima Adveniens di Papa Paolo VI. Per creare un contrappeso all'invadenza della tecnocrazia, occorre inventare forme di moderna democrazia, non soltanto dando a ciascun uomo la possibilità di essere informato e di esprimersi, ma impegnandolo in una responsabilità comune. I gruppi umani così si trasformano a poco in comunità di partecipazioni e di vita. La libertà, che si afferma troppo spesso come rivendicazione di autonomia, opponendosi alla libertà altrui, si sviluppa così nella sua realtà umana più profonda. Impegnarsi e prodigarsi per costruire solidarietà attive e vissute. Ma per il cristiano è perdendosi in Dio che lo libera, che l'uomo trova una vera libertà, rinnovata nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. È con noi in collegamento telefonico Giovanni Saonara, insegnante, collaboratore del Centro Toniolo, già presidente diocesano dell'Azione Cattolica e parlamentare negli anni 90. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi dell'opportunità. Tra i nostri ascoltatori, molti sono intenzionati a non recarsi alle urne questa volta. Cosa direbbe loro per dissuaderli e convincerli ad andare a votare, sempre che sia una cosa giusta convincerli ad andare a votare? Ma io rispetto tutte le scelte, tuttavia tutti i dati che sono a nostra disposizione, nonché le regole anche elettorali vigenti, ci portano a dire che chi si astiene regala sostanzialmente la responsabilità della scelta a chi partecipa, quindi l'astensione viene contabilizzata correttamente dal Ministero dell'Interno e da tutte le statistiche successive, e tuttavia sostanzialmente chi partecipa decide, chi non partecipa non decide. Quindi insomma è un invito in qualche modo. Direi proprio di sì, perché non è che vengono eletti un minor numero di deputati e di senatori in base ai partecipanti, i senatori e i deputati sono sempre quelli, quindi non c'è nessuna penalizzazione tra gli eletti. Partiamo dalla dottrina sociale della Chiesa. Già all'interno della Chiesa come istituzione, in molte forme, fin dai suoi primordi, si è usato il sistema di voto in determinati consessi, dalle abbazie fino ai conclavi, e recentemente poi, anche dopo il Concilio Vaticano II, nuove forme di partecipazione ecclesiale, pensiamo ai consigli pastorali, alle associazioni. Cosa ci dice però la dottrina sociale su questo tema? Cosa ci dice la dottrina sociale sul voto? La dottrina sociale ci dice che il sistema democratico è il sistema apprezzato, apprezzamento al quale la Chiesa è arrivata probabilmente con ritardo rispetto a tutta una serie di dinamiche storiche. E tuttavia mi sembra che essere giunti a questo apprezzamento formalizzato nei documenti e anche nelle encicliche più importanti, questo significa evidentemente che l'invito è a far parte di un popolo responsabile, quindi credo che il partecipare alle elezioni sia sempre un segno di responsabilità, cioè di risposta alle richieste che vengono da una società. La Chiesa non ci dà indicazioni di voto adesso, ma il cristiano come dovrebbe comportarsi coerentemente con il Vangelo a cui crede e con la società nel quale è chiamato a vivere? Ma credo che non ci siano ricette, tuttavia ci sono delle metodologie, penso, ispirate alla prudenza e anche alla sapienza. La prima è quella di informarsi, la seconda è quella di conoscere, perché l'informazione va, cioè la conoscenza va oltre l'informazione, e la terza, se possibile, è anche quella di ricercare, perché non sempre quello che viene detto dai protagonisti della vita politica corrisponde poi, come dire, a una soluzione, e quindi se ci si informa, se si conosce e se si ricercano anche delle soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono prospettate, credo che si eserciti questa responsabilità. Poi naturalmente si sceglie ben sapendo che la politica, per fortuna, nei paesi liberi di questo mondo è un'arte provvisoria, cioè nel senso che le soluzioni politiche sono per natura loro modificabili proprio dalla responsabilità democratica. Insomma, la politica non è una scienza esatta, per cui se un millennio fa andava benissimo Carlo Magno, adesso siamo convinti della democrazia anche come esercizio del potere da parte del popolo. Sì, direi proprio di sì, cioè molti studiosi e non solo si stanno occupando in questi anni, in questo anno dei 500 anni di pubblicazione del Principe di Machiavelli. Ebbene, rileggendolo è chiaro che si misura anche la distanza rispetto a questi 500 anni. Ogni frutto ha le sue stagioni, insomma. Eh sì, direi proprio di sì. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Sì. Il bene di tutti, parliamone. Mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao, come stai? Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. E adesso siamo occhi negli occhi e non serve a niente parlare, mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. I tuoi occhi ritrovo i miei giorni di qualche anno fa, le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po', raccontami quello che fai, sei la stessa che un giorno m'ha detto non ti lascerò mai. Un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti, tu L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare. Ogni volta che mi torni in mente continua a brillare. In un angolo della mia mente ti continuo ad amare. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. Che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo. Chissà se si chiamava amore. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con il professor Giovanni Saonara. In questi giorni di elezioni stiamo pensando non tanto a chi vota, ma a chi sta pensando, ha già deciso di non andare a votare. Stiamo parlando infatti di astensione. Grazie professore per essere con noi. Bene, proseguiamo la riflessione. Non so, ma sono passati pochi mesi, ma magari ce ne siamo un po' dimenticati. Ad ottobre, nel mese di ottobre del 2012, la Sicilia ha scelto come suo presidente Rosario Crocetta. È stata una delle elezioni con l'astensione più alta della storia repubblicana, anche a livello locale. Molti sono rimasti sconcertati da questo dato. Più che parlare della vittoria di un candidato piuttosto che un altro, era questa astensione che ha superato il 50%. C'è da dire però che l'Italia ha sempre avuto un tasso di astensione molto più basso rispetto agli altri paesi, anche a democrazie cosiddette mature come gli Stati Uniti, dove sono veramente pochi che si recano a votare. L'astensionismo, le faccio una domanda, è una tragedia o è fisiologico nelle democrazie complesse? Le democrazie complesse, lo dice l'aggettivo scelto, evidentemente presentano anche fattori che non possono essere liquidati con una battuta. Noi veniamo da una storia di altissima partecipazione popolare che era anche connessa proprio alla nostra storia nazionale. Vorrei ricordare che le prime libere elezioni del 2 giugno del 1946 venivano dopo 5 anni di guerra, anche civile, e 22 anni di dittatura. E quindi è chiaro che la partecipazione popolare maturava in una condizione assolutamente favorevole. Altri paesi, come gli Stati Uniti ad esempio, non hanno conosciuto queste tragedie e queste derive, e quindi evidentemente l'esercizio del voto popolare può anche rispondere ad altre logiche. Peraltro è del tutto evidente, se si legge qualcosa, se si ci si riferisce a qualche studio anche specifico, che l'astensione dalla partecipazione non è una tragedia, è un fattore derivato anche dalla modernità e derivato anche dalla sicurezza. Quando la democrazia non è in pericolo, spesso la si considera un bene acquisito per sempre. Allora, credo che la soluzione sia questa: non considerare gli astensionisti come persone che non partecipano alla vita pubblica, ma semplicemente recuperare o tentare di recuperare logiche di cittadinanza, perché la democrazia, quella vera, quella di qualità, non è mai acquisita per sempre. Può essere una democrazia solo procedurale, quindi il diritto di voto, ma l'esproprio rispetto al potere reale. Quindi lei in qualche modo mi sta dicendo che l'astensione non è solamente dovuta magari al disgusto della classe politica o a forme di sfiducia, ma anche è molto più fisiologico di quel che pensiamo? Ma io, guardi, sto guardando l'astensione anche nel nostro territorio, nel territorio del Veneto, e i numeri sono molto precisi, sono raccontati dall'Osservatorio Elettorale Regionale. E certamente c'è anche una quota di disgusto, ma c'è anche una quota, ripeto, di disincanto, di lontananza, e sulla quale io credo che i partiti politici possano e debbano lavorare. Viceversa, ho l'impressione che più di qualche volta anche nel nostro territorio, non solo nella Sicilia, si giochi un po' sul fatto che comunque poi si va a partecipare in misura piuttosto ridotta rispetto al 100%, no? Ecco, sì. Non dimentichiamo che nelle amministrative in Veneto nel 2012, non in Sicilia, in Veneto, qualche mese prima della Sicilia, al ballottaggio in alcuni comuni non si è superato, cioè si è appena superato il 50%, quindi voglio dire, non la situazione è davvero tutta l'Italia complessa. Paese, diciamo, esatto, tutta l'Italia paese. Esatto. Senta, a settembre sono usciti i dati di una ricerca commissionata da ACLI che ha mostrato proprio matematicamente come i cattolici praticanti abbiano un tasso di astensione, o almeno ce l'avevano a settembre, pari al doppio della media nazionale. Ma io credo che l'offerta politica in questa occasione sia particolarmente vasta, nel senso che sono nate nuove formazioni, sono presenti nuove liste che non erano presenti nel 2008, si sono riposizionati anche alcuni importanti esponenti politici, quindi credo che l'offerta sia stata riformulata. Quindi, il grande peccato è che votiamo con una legge elettorale che è assolutamente inadeguata per rafforzare l'idea di cittadinanza. Guardi, in autunno abbiamo fatto delle puntate sulla legge elettorale, convinti che sarebbe cambiata, e non è cambiata. Abbiamo fatto delle puntate sicuri con alcuni esponenti politici e questo non è successo. Però andiamo oltre. Sì. E andiamo un po' sul abbiamo ancora poco tempo, però le chiedevo un attimo un raffronto tra diverse forme di astensione. Allora, c'è quello che rimane a casa che non va a votare, c'è quello che va e fa la scheda bianca, c'è chi va e scrive delle parolacce o fa un segno e annulla il voto. Io da scrutatore in questi anni ne ho visti tantissimi. E c'è anche chi propone forme di astensionismo più attive, cioè si presenta al seggio, chiede di depositi i documenti e al momento di avere le tessere per votare rifiuta di prenderle e fa mettere a verbale, facendo passare veramente 5 minuti di angoscia agli poveri scrutatori che sono lì. Però vuole dimostrare qualcosa. Tutte queste varie forme, ci dà un attimo un raffronto? Abbiamo ancora un minuto, ci dà queste differenze? Ma guardi, i comportamenti individuali vanno sicuramente rispettati, però osservati e rispettati. Qual è l'esito? No, l'esito è quello a cui accennavo prima, cioè sono tutte forme legittime di dissenso, tutelate anche dalla nostra legge, perché noi viviamo in un paese libero, e tuttavia non incidono, nel senso che, ripeto, non è che il numero degli eletti cambia a seconda della partecipazione elettorale. Quindi, insomma, tanto per dire, chi volesse andare lì e far passare 5 minuti di angoscia ai scrutatori può benissimo fare scheda bianca o fare un segno. Direi proprio di sì, anche se sono statisticamente sia la scheda bianca sia la scheda nulla sono davvero in posizione minoritaria rispetto all'astensione. E tuttavia, ecco, sono forme legittime. L'importante è davvero partecipare. 10 secondi. Cosa consiglierebbe alla categoria degli indecisi, cioè quelli che ci stanno ascoltando e veramente non sanno, vogliono votare ma non sanno chi votare? In 10 secondi. Sapere, sapere e sapere, cioè essere persone. La ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha concesso e auguriamo a tutti di chiarirsi le idee e di esercitare questo diritto nelle forme che vorranno. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Ci troveremo, carissimi ascoltatori, nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto per un commento all'esito del voto in compagnia di Don Marco Cagola, responsabile della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova. Potete riascoltare queste e le altre puntate sul sito di Blu Radio Veneto, potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Canton è tutto, buon voto e alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.